Giovedì 23 novembre, Gaza, Palestina, 48esimo giorno. La tregua che era prevista per oggi è stata rinviata a domani. Nella notte i bombardamenti sono stati ancora più intensi, al punto che i vetri delle finestre sono andati in frantumi sopra le nostre teste e le porte si sono spalancate per la pressione. Non siamo riusciti a chiudere occhio e i nostri bambini erano terrorizzati dalla violenza delle esplosioni. Questa mattina mi sono recato all'ospedale europeo per far visita ad alcuni amici rimasti feriti durante la guerra. Quando sono arrivato, sono rimasto scioccato dal gran numero di feriti e dall'orrore delle scene che ho visto. C'erano persone a cui sono state amputate le gambe, altre le braccia e altre ancora entrambe. Alcuni avevano perso la vista, altri riportavano ferite profonde. Molti dei feriti trasferiti dal nord al sud mostravano segni di infezioni gravi, con ferite ormai in necrosi a causa delle settimane trascorse negli ospedali del nord, completamente assediati e privi di forniture mediche. La mancanza totale di medicinali e attrezzature ha fatto peggiorare drammaticamente le loro condizioni. Scene catastrofiche e spaventose. Persone che avrebbero potuto essere salvate hanno perso arti del corpo solo perché non è stato possibile curarle per via dell'assedio. Altri, che avrebbero avuto bisogno soltanto di un intervento semplice, rischiano ora la vita perché gli ospedali della striscia non riescono più a gestire la situazione. Troppi pazienti, troppa carenza di materiali. Attendiamo con ansia l'annuncio della tregua umanitaria e speriamo che tutto questo finisca presto. Speriamo nella guarigione dei nostri feriti e speriamo di poter tornare alle nostre case, anche se ridotte a macerie per la devastazione che le ha colpite. Mohammed Shaban Alamarin.